Radio. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, ci siamo. E non è successo niente, se n'è andata una chitarra, ecco cose che capita. Buonasera da Rockway, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Michele Tosoni in regia, da Roberto Baldi che ha curato le telecamere, organizzazione di Alberto Prisco, e buonasera ai nostri amici from Lugano, Lonesome Sovereign Comfort Company. Buonasera a Boris, buonasera ad Abram e buonasera a John. Ciao, grazie. Ciao. Avete fatto un buon viaggio? Sì, sì, sì. Bene. Viaggio bello, sì, un po' di chilometri da Lugano fino a qua, però passabile, è stata una bella giornata, quindi era un po' caldo. E noi siamo molto onorati di avervi. Andiamo oltre confine, arriviamo in Svizzera. Il disco è bellissimo, il vostro, il secondo, Carlo il Tempo, Charles the Bold, secondo album vostro. Come nasce il progetto vostro? Dove parte, John? È nato nel 2006. 2006. Mi sembra, sì, quando... Io suonavo in una band post-rock ai tempi e avevo bisogno di un attimino di libertà. Eri stancato, ti eri stancato. Sì, avevo bisogno anche di scrivere testi, non limitarmi alla musica strumentale, e allora ho deciso di lanciarmi un po' nel songwriting. Certo. E io ho letto le critiche sia del primo album, che era molto bello, e anche del secondo, e sì, siete degli svizzeri, sì, ma come al microfono spento abbiamo già parlato, ma siete gli svizzeri che... musicalmente di svizzero, beh, c'è un'idea, cioè musica svizzera non è a identificare in una certa maniera, ma musicalmente siete molto molto americani. Perché, come mai questo stelle e strisce che viaggia dappertutto? Io ho vissuto per un po' di tempo negli Stati Uniti. Quindi quello mi è, quando sono stato lì, prima di essere lì, in realtà avevo altri gusti musicali. Altri disegni musicali. E quel viaggio, quel periodo mi ha profondamente colpito. Soprattutto il paesaggio, il modo di vivere anche, no? Il deserto, la pianura. E ti ha ispirato allora? Sì, e poi questo mi è rimasto. Però secondo me comunque, soprattutto nel nuovo disco, l'ho già detto anche... Io di svizzero ci sento abbastanza, non so. Il folk forse? Sì. Nel primo no. Nel primo no. Nel primo no, assolutamente, era molto più roots, però. Sì. Nel secondo sì, hai ragione, cioè è più ricamato, tra virgolette. Ci sento. C'è un po' di svizzero. Anche nel primo pezzo iniziale c'è un po' di svizzero, questi cori, questo crescendo un po' particolare. Quindi, nonostante tutto, sì, americano sì, musicalmente, però... C'è un costante, ci sento come un costante corno delle Alpi, io sotto. Bello, okay, però non c'è il corno delle Alpi, peccato. Ci sono tanti strumenti, però quello non c'è. Però che poi è vero che prima si diceva scherzando dello yodel, però in realtà lo yodel ha poi anche influenzato il country e il folk statunitense. C'è proprio lo yodeling che è una derivazione fondamentalmente della musica svizzera austriaca. Certamente. E Boris e Abram come sono arrivati nel progetto tuo praticamente? Mi ho trovati per strada. Erano più economici. Erano disoccupati. Quindi li hai, sì, esattamente. Sì, li hai trovati per strada. Il primo album, che è quello qua, dove vedo. Sì, il primo album l'abbiamo messo là, sì, praticamente. Era un progetto che doveva essere un progetto tuo solista. Eri stancato, volevi praticamente portare avanti un discorso tuo personale. E poi hai incontrato degli amici e li hai invitati a venire in sala di registrazione. Sì. E come è nato questo discorso? Poi come si è sviluppato? Io ho cominciato a registrare 15 pezzi. Velocissimamente, ho letto da qualche parte. Sì. Proprio li scrivevo. Di getto, via. Esatto. E li registravo, poi magari me li ascoltavo in macchina e dicevo: ok, sarebbe bello far fare a questi miei amici questa parte, oppure farmi aiutare a fare quest'altra parte. O comunque, non avendo una band stabile, avevo anche bisogno di un batterista che suonasse. Alcuni pezzi li ho suonato io la batteria, quelli peggiori. Mentre in altri avevo bisogno di un batterista che sapesse per suonare. Esatto, così abbiamo invitato per esempio Peter Kernel, che sono un altro gruppo con noi in etichetta. Citiamo l'etichetta, visto che ci sei. È On the Camper Records. Esattamente. E poi Duke, che già suonava con me nei Far From the Madden Crowd, che erano il gruppo di cui dicevamo prima, e che è ancora il nostro turnista. Dico perché ci sta ascoltando a casa. Ah, bene, non è potuto venire, quindi. Quindi fa parte anche lui di questa formazione nuova. Per intanto, sì. Ah, per intanto, cioè perché non è sicuro. Non è, no, nulla è sicuro. Ah, nulla è sicuro. No, no. Hai qualche altro progetto? No, spero di no. Di continuare il discorso? No, con lui non lo so. Con loro sì. Con loro sì. Questo è sicuro. Quindi, perfetto. Ora, da un album, un primo album, che adesso sentiremo un pezzo, aveva una certa impostazione, tu hai detto. Secondo, è un po' diverso. Si è un po' allontanato di quell'impostazione. Perché bisognava allargare gli orizzonti o perché volutamente hai deciso così? Perché c'erano musicisti bravi con me stavolta. Ecco. Perché se prima le chitarre le suonavo tutte io, adesso le suona soprattutto Abram. C'è una viola. Abram suona la chitarra, Boris? Suona viola e violino. Che è qui presente, poi dopo facciamo vedere. Cioè violino, viola. No, viola. Per carità, non dire una cosa che non è vera. Assolutamente. Ha fatto male per molto meno. Sono molto gelosi i musicisti, sì. Quando sbagli o sbagli non volutamente, so. E quindi il loro tocco si sente decisamente, abbellisce il disco. Sì. Ok, facciamo sentire il primo pezzo dall'album iniziale, cioè l'album di esordio, posso dire così. Il pezzo che hai scelto, la traccia numero 3, qual è? Coming Home Every Night at You. Musicalmente come lo definisci? Non lo so, cioè c'è dell'indie, perché c'è dell'indie, sì. c'è un synthesizer sotto, però rimane un disco lo-fi. Esattamente, rimane un disco lo-fi. Esatto. Adesso lo sentiamo, ok? Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. And now I make you suffer. Everybody loves you. You will wait in silence. I know I'm a bad husband. I'll never be a good boy or a good father. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Sì, tu hai detto lo-fi, sì, era lo-fi abbastanza, però non totalmente lo-fi, vero? Si allargava, già c'erano già i presupposti per l'allargamento di questo album. Ecco, questo Charles de Bolle, Carlo il Temerario, duca di Borgogna, che voleva guerreggiare con i francesi e poi purtroppo ci ha lasciato le penne con un alabardo svizzero che l'ha infilzato. Questa è la storia della battaglia di Nancy. Come mai questo eroe, tra virgolette, di quell'epoca, la battaglia del 1476? Uh-huh. Come mai hai preso questa ispirazione? Questo concept album, se possiamo dire così. Sì, magari non è un concept, però ci sono dei un buon terzo dedicato a lui. Un buon terzo dedicato a lui. Al Medioevo, a quel periodo. Sì, è un personaggio molto importante anche per la storia svizzera. Carlo il Temerario, per esempio, voleva fare concorrenza al, al re di Francia. Certo. E gli svizzeri, che erano prima una nazione molto piccola nel panorama europeo, sconfiggendolo hanno iniziato la loro, il loro allargamento territoriale. E questo è strano, pensare che la Svizzera sia stata poi un paese invasore che conquistava e che è diventato anche molto potente per cinquantennio circa. Certo, certo, certo. Un periodo di storia svizzera, secondo me, molto interessante e abbastanza sconosciuto anche, anche, anche da noi. Ah, beh, di chiaramente sconosciuto da noi, se no gli esperti. Io ci sono andato a, a vedere, a, a informarmi, a documentarmi. No, cioè, no, qualcosa ho capito. In ogni caso, è una cosa interessante, cioè lo spunto è stato interessante. E allora il discorso della musica, che si allontana leggermente dalle coordinate del primo album e si tuffa, se possiamo dire così, con questo folk, tra virgolette, un folk acido in alcuni momenti, posso dire così, siete d'accordo? Sì, sì, sì. Cioè, sì. E quindi questo sviluppo, questi strumenti, questo, tanti strumenti acustici, banjo, chitarra acustica oltre al violino, come mai? Perché c'è questo motivo folk in sottostante, o perché era così, doveva essere così? Ma la posso parlare anche no, cioè, no, guarda, no, loro hanno il microfono, se vogliono loro se vogliono hanno il microfono, posso dire quello. Ma come si dice, abbiamo impiegato quanto avete impiegato? 8 mesi. Quanto ci siamo messo a fare? 7 mesi. Per fortuna, ecco, dopo parliamo anche magari con lui di questo. Chiaro, non ogni giorno, cioè. No, ma quando avevate il tempo di farlo, sì, praticamente. Sì. Quindi non a tempo perso, ma quando c'era il tempo. Dimmi. No, dimmi. No. Di Ambra. Abra, no, appunto, non era soltanto quella giunta che volevo dire. Grazie. Esattamente. No, stavo dicendo. Sì, dimmi. In realtà ci abbiamo messo 7 mesi a registrarlo. In questi 7 mesi. Sono passati diverse atmosfere, anche magari il bisogno di fare folk, secondo per me c'è sempre, certo. Io parto da quello, però non so, magari un giorno fuori pioveva e allora mi veniva voglia di fare magari un pezzo un pochettino più cupo, più rock, più forte, più cattivo. Fondamentalmente sono passate 3 stagioni, no? Da quando abbiamo iniziato, sì, a quando l'abbiamo finito. Quindi 8 mesi circa, esatto. Quindi l'umore musicale cambiava. Sì, sì. E chiaramente è influito. Sì, poi lui arrivava in studio, si arrivava magari per registrare qualcosa. E cambiava 5 minuti e registriamo questo e salta fuori il pezzo. Cioè, come è stato il corso della registrazione, Abram con le chitarre e tu con la viola, come è stato questa unione di intenti? John portava un canovaccio, un tema, e poi come si sviluppava questo tema? C'era anche la batteria di Duke, sì. Esattamente, che è fondamentale, direi molto fondamentale. Sì, una volta. Fondamentalmente è lui che ha la direzione artistica. Lui ha la direzione artistica. Quindi prende le decisioni. Fondamentalmente poi noi che offriamo è il tocco. Per tu suonare chitarra, quindi. Sì, non tutte. Però non tutte. Insomma. Però mano a mano si vede che il pezzo prende il suo sviluppo. E cambia, si trasforma e poi arriva, cioè fondamentalmente l'ho vissuta così. Non è stato, cioè la produzione è vostra, totalmente vostra, oppure c'è stato un produttore esterno che no. Totalmente vostra, avete deciso voi di fare completa, così completa libertà. Quindi quando siete arrivati al punto ok, va bene, si può registrare, insomma, praticamente la registrazione è un disco dal vivo o quasi? No, è un disco, anzi a me piace molto lavorare sull'improvvisazione in studio. Ho capito. Per fortuna da quando si è aggiunto Boris alla band abbiamo uno studio nostro. Ah, perfetto. Suo. Suo perché paga le attrezzature, nostro perché lo utilizziamo. Ok, ho capito. Però, e questo ci ha facilitato moltissimo il compito, cioè si entrava in studio la mattina semplicemente con io che avevo scritto magari un'ora prima un pezzo chitarra e voce, oppure non avevo neanche finito di scrivere i testi, e durante la giornata lo si portava a termine aggiungendo cose che però non sapevamo esattamente cosa avremmo aggiunto. Quindi la quadratura del cerchio non era mai effettuata, esatto, finché finché non lo si mixava alla fine. Non si mixava alla fine, per dire. Quindi anche noi siamo rimasti stupiti poi da quello che usciva. A me piace tantissimo lavorare in studio in questo modo, perché stimola la creatività. Certo, per fortuna, certo. Ripeto, abbiamo uno studio nostro. Se avessimo dovuto prendere uno studio a pagamento, non saremmo qua. Il portafoglio non resiste. No. Quindi le ore. Quindi non c'hanno ore quando c'è l'ispirazione. Sì, la cosa bella è che noi eravamo solo noi quattro, no? In studio non c'era nessuno, né uno dietro al mixer. Niente. Tutto quanto voi. Proprio noi quattro, e c'era tutto il tempo, no? Tra virgolette. Lavoro permettendo, certo, quindi certo. C'è una certa atmosfera, insomma. Quindi tutti i giorni o solo sabato o domenica praticamente? No, beh, dipendeva. Dai, volte tempi. La sera, a volte la domenica. Ma c'erano anche i concerti. Da fare, oltre a registrare il disco nuovo, quindi per promuovere il disco precedente e anche a registrare il disco nuovo, quindi c'era un'attività completa, continua. Infatti anche una parte di questi pezzi comunque venivano suonati nel frattempo, anche provati dal vivo, allora praticamente. Ma, o no? Sì, se si vuole, sì. Magari. Ma io direi più che provati, proprio suonati. Ah, suonati direttamente. Cioè, nel senso che sì, si suonava. Cioè, spesso anche lui dice: sì, facciamo quel pezzo. Magari. Anch'io non sono sicuro di quello, però poi si fa. E che, quindi, che posti suonavate? Poi magari nel disco viene diverso. E in che posti suonavate, in Svizzera o anche qua praticamente? Beh, più che altro in Svizzera. Beh, cioè teatri? No, in pub. Suoniamo dappertutto. Dappertutto. Sì. E sinceramente diamo il meglio veramente nei posti piccoli. Ah, ho capito. Non so perché, ma penso che i migliori concerti che abbiamo fatto sono stati davanti a 3 persone. Abbiamo suonato a Verona 3 mesi fa davanti a 2 persone, ma secondo me è stato il più bel concerto che abbiamo mai fatto. È giusto che sia così. Indipendentemente, ma erano persone che sentivano probabilmente il sound vostro, e questo è importante, è fondamentale. Ma poi sì, magari noi siamo meno influenzati dall'avere tanta gente. Tanta gente o meno gente. Comunque c'è un'aspettativa da parte loro. Quando c'è poca gente è più familiare, no? Certo, certo. Più libero, ti senti un po' più. E la componente dei concerti è acustica, elettrica o una componente assieme praticamente? Dipende da dove, da dove siamo a suonare. Anche dal suo umore. Anche dal suo umore. Soprattutto. Ho capito. Cioè, quando hai un certo umore, si può suonare in una certa maniera. Si può fare le cose in un certo modo. Un certo modo. Quando ne è un altro, vai. Ma capita. Ma è giusto che sia così, perché comunque la musica vive del caso, vive insieme a te, quindi a dipendenza se uno è triste o se ha qualcosa per la testa. Certo, però lui scrive i pezzi, però dopo gli insieme dei pezzi sono approvati anche da voi, chiaramente. Non c'è una piena democrazia da parte sua. No, non c'è la piena democrazia. Adesso scherzo, ma in realtà è così. Tutti possono dire la propria, però il diritto di voto è l'ultima assolutamente. Così è, sì, così rimane. Sì. Ok, allora sentiamo un altro pezzo dal disco nuovo stavolta. Che traccia avete scelto, ti ricordi? No. Cosa era? Traccia del verde deve essere la numero 2, la numero 4, mi dice Michele. Ah, è Tom Dead. Sì. Beh, la sentiamo. La sentiamo, ok. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo molto malinconico, posso dire autunnale, l'autunno è arrivato ieri praticamente, oggi ne abbiamo 22, no, è vero, fa molto caldo, fa molto caldo, no, non dico autunnale, ma un po' di malinconia voluta, questo suono, questo strumento che porta alla malinconia, è un bello strumento sicuramente, la viola, giusto? La viola, sì, non sbaglio, la viola è bello, è malinconico, è interessante, decisamente interessante. Questa è la traccia numero 4 di questo nuovo Charles de Bold, questo Carlo il Temerario. Disco molto bello, ripeto, a me è piaciuto molto, l'abbiamo sentito parecchie volte, l'abbiamo ascoltato. E c'ha molte facce, posso dire, John? Al di là delle facce grezze iniziali, come hai detto tu giustamente, il folk, ma in folk allargato a 360 gradi, c'ha molti riferimenti. Voluti chiaramente, perché bisogna esplorare, bisogna andare avanti, non è così? Sì. Credo faccia parte del un po' della cultura musicale. Io ho cominciato ad ascoltare musica soprattutto anni psichedelica, anni 60, 70. Insomma, come dicevamo prima, sono passato poi dopo al folk, al country. Era un po' di punk, hai fatto anche qualcosa. Quello è arrivato dopo. Beh, è arrivato dopo che quello. Cioè io arrivo sempre in ritardo. La sua ragazza glielo dice sempre. Ah sì. Però no, lei dice sempre il contrario. Sei proprio in dubbio. Però allora e dopo mi sono anche avvicinato comunque alla musica indie abbastanza tardi quando. Comunque sì, ci sono diverse influenze in questo disco. Cioè, diverse influenze, sì. Cioè, c'è anche, secondo me, non posso dire che ci sia anche il punk, ma in alcuni momenti esagitati nel senso positivo del termine, c'è questa tensione voluta che può sforciare anche nel punk, sempre tra virgolette. Però parte sempre dal folk. Il folk in tante sfaccettature, questo è importante. Sì. Credo che l'attitudine nostra sia l'attitudine. Molto punk. Cioè, l'attitudine, sì. Prima loro forse non volevano dirlo, ma si vergognano. Però non, sì. Anche facendo concerti, noi facciamo veramente pochissime prove. Ah, tutto come va? Come va va? Buona la prima, insomma, praticamente. Sì, a me piace questo genere di... Sì. A loro un po' meno. Un po' meno. Ma non li fustichi mica se sbaglio? No, anzi. Ma non sbagliano mai loro, chiaramente. A volte sbaglio. A volte sbaglio. Ma a volte sbagliamo tutti. Sbagliamo tutti. Ma se si sbaglia fa niente. No, anche Dila sbaglia, quindi però Dila, vabbè, cosa vuol dire? Vuol dire niente, sbaglia anche lui. Chiaro. Quindi c'è questa attitudine, non dico all'improvvisazione, ma buona la prima, come va avanti. E quindi il disco Buona la prima è nato così, tra virgolette. Ok, perfetto. Siamo pronti? Suoniamo adesso? Sì, prendiamo gli strumenti. Salutiamo un momento la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia che ci seguono sempre, ci danno una mano anche loro. E adesso cosa suoniamo per iniziare questa cavalcata fino alle ore 24? Ma farei Bixby Bay Creek, che è la prima traccia. La prima traccia dell'album nuovo praticamente. Esatto. Avevo detto di metterlo più vicino. Driving straight to the south till I find a seaside town on the cliff, or to rest for a while. So long I've been goofing around, but it's out. I'm not out. So long, I've Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. John, mi è venuto in mente questa definizione, folk spettrale, posso dire. Dopo non è vero, però ho avuto questa sensazione quando ho sentito questo pezzo meraviglioso, questo pezzo che lentamente cresce a dismisura, quindi rompe determinati schemi per poi allargarsi totalmente. L'idea è questa, è partita da questa, Boris, oppure no? Tu che hai la viola e dai una certa impostazione al pezzo. Io direi, almeno da parte mia e probabilmente di tutti, non è proprio nato così, però è diventato subito così. Almeno io l'ho vista subito così, soprattutto per quello che faccio io, diciamo, con la viola e cosa dopo lui ha fatto con le voci, cioè che sto crescendo, e penso che l'abbiamo sentito tutti subito. Certo, questa direzione, diciamo, che ha preso il pezzo. Sì, abbiamo aperto la finestra molto bene, cioè. Primo pezzo da subito un'impostazione. Sì, è abbastanza rappresentativo. Esattamente. Mi dicono giustamente Alberto che il nostro curatore, il terzo posto in classifica, siete terzi nella nostra classifica. Quindi è una cosa bellissima. Bellissimo, perché da noi non ci passa. Ah, è vero. Ma siamo noi, non c'è problema. Continuamente. Che è meglio, cioè. Questo pezzo è al terzo posto, è bello, è significativo. Quindi abbiamo detto la viola, la voce di John. E la tua chitarra che colora, che colora il pezzo, questo ipnotismo, questa nota che si ripete lentamente, sì. Lentamente. Ma Abrandimi. Secondo me il mio ipnotismo comunque è dato anche, se vuoi, da un certo punto di vista, anche da una limitazione. Perché? Perché, bene o male è comunque anche il mio stile, che si è un po' legato a queste cose, di poche cose semplici, ma... Se vuoi, sì. Ma le poche cose semplici, sentite, no? E quindi sì, quindi c'è più, si pesa di più la cosa su quella. Mi mancano le parole. C'è più trasporto, ecco, possiamo dire, esatto. Questo. Quindi cose sì, non sono un chitarrista che sa 13.000 scale. E quindi mi lascio andare su queste dolcezze, se vuoi. È una dolcezza particolare, ma una dolcezza semplice. Non importa che tu non sia un chitarrista da 13.000 scale, ma sei un chitarrista che sei giusto nella funzione della musica vostra, secondo me. Anche se in realtà, dimmi, ai, c'è qualcosa. No, in realtà sto facendo un complimento. Cioè, bene. Io scrivo i pezzi e io scrivo anche le parti di chitarra. Ah, ho capito. E lui le fa. Lui in realtà è un chitarrista straordinario. E io tante volte mi sento in colpa a pensare che lui deve semplicemente fare due note o tre note, fare quelle due note molto meglio di come le farei io. Lo stesso discorso vale per la batteria. Abbiamo un batterista, secondo me, bravissimo, e molto spesso deve fare due colpi o tre colpi in tutta la canzone. All'inizio si vergognava perfino di suonare così la batteria, mentre Boris ha fatto il conservatorio, quindi tante volte mi chiedo cosa ci faccia poi con me. Quando potrebbe suonare una sinfonia, e invece viene a suonare con me. E anche Abram è lo stesso discorso. Lui diceva: viene da una mia limitazione. In realtà la limitazione è mia. Lui. Ma poi scusa, se posso. Cioè, onestamente, ok, magari nessuno di noi è Paganini. Certo. Però credo che la cosa buona che abbiamo tutti è che sappiamo, non lo so come dire, sentire l'atmosfera del pezzo e adattarci a quello. Quindi, per dire, anch'io in questo pezzo qua suono due note, però ha un'efficacia, l'intensità, esatto. Lui anche con le sue due note, cioè sono cose molto semplici, se vuoi, però se sentite nel modo giusto funzionano. Noi abbiamo scritto nella introduzione qua, ho scritto che le due note, la semplicità si sposa perfettamente, si incatena, si incastra perfettamente con la sua voce. Sì. Esattamente, la sua voce è che proprio è al collante della tua viola, della sua chitarra. Io la vedo così, insomma. Ma forse siamo semplicemente fatti uno per l'altro. Ecco. Questo è chiaro. Un po'. Perché musicalmente va bene, okay. Così, è giusto che sia così. Benissimo, allora vi proporrei farsi un altro pezzo dal disco, sempre la traccia dal disco nuovo che è appena uscito, e non mi ricordo la traccia che hai scelto. Ti ricordi la traccia? Fai te, vai. Ok. Rock Wave. L'onda del rock, l'onda del rock. If I have the chance, if I find a way to forget these moments, I will. Just lay down my bed, call the cops, slay for another. Just a waste of time. It was now, it was now my turn. Every now my fate to die in the parking for a car. I treat a broken bones, my blood's out my shirt. So here is what I learned. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sì, era una pillola giustamente, però anche quello pochi. Penso un minuto e dieci all'incirca. Sì, qualcosina in più. Ma... è quello. Adesso mi stavi spiegando a microfono spento, adesso mi dici a microfono aperto come è nato questa impostazione un po' particolare, questa voce che sembra filtrata, sembra il telefono, eccetera. E allora quella parte. Si chiama, il pezzo si chiama Mazza. Sì, esatto. Che è la macchina di John. Ah, che è la macchina di John. La traccia numero 13. Esatto. Beh, diciamo quella parte che sembra un megafono, era una registrazione che era stata fatta, penso molto tempo prima, in un altro studio, e che abbiamo usato, quindi è l'unico pezzo del disco non registrato nel nostro studio, che però abbiamo, diciamo, con un equalizzatore, togliendo tutti i bassi e parte degli acuti, diventa un po' questa cosa tipo telefono, megafono, insomma. E poi sopra abbiamo aggiunto la registrazione. Nuova, diciamo, perché il pezzo in sé era bello, però mancava un pochino magari qualcosa per colorarlo meglio, dare un input. E allora giusto. È nata un po' questa cosa alla Wish You Were Here. È vero. Tanto per citare Pink Floyd, che dopo citeremo più tardi, quando sono le 23 all'incirca. Che è un pezzo all'inizio, tra l'altro, che è una parte di un EP che poi è stato abortito. Nato un po' male. Preso. Non andava bene. Sì, anche perché io ho sentito parecchie cose che lui poi non ha mai usato, che sto un po' insistendo per fargli. Ha tante cose nel cassetto praticamente, o no? Sì. E beh, ma se lui lo lasci due giorni in uno studio con un pezzo di pane e un po' d'acqua, fa quattro dischi, quindi c'è parecchia roba. O magari anche il caffè e le sigarette. Ah sì, ecco, sì. Quello sono indispensabili. Altrimenti fa lo sciopero, perché penso che con solo pane e acqua non ce la fa. Ti gratta i muri. Ma certe cose le hai già sentite, che le hai fatto già? Sì. Ma infatti ho in cantiere di metterne alcuni, e lui lo sa già. E lui è d'accordo. Spero. Vedremo. Poi so già che le cose cambieranno e anche i pezzi cambieranno, però le basi secondo me sono quasi sempre, cioè a me piacciono sempre molto le cose che lui tira fuori così, a caso anche. E stanno vedendo la faccia, perché lui non è una faccia che quando tu gli hai detto sei d'accordo, diretta da www.intervista.org, ci potete vedere e sentire, stanno vedendo la faccia di Joker. Che non è... ma... No, lo faremo decidere a Duke. Ah, okay. Ecco. che non c'è. Quindi batterista Duke. Tu hai detto che è un ruolo limitato, non limitato, perché determinato, ma è molto bravo. Cioè, potrebbe allargare il ruolo Duke oppure no, secondo te? Ma lo allargherà. Lo sta allargando. Nei pezzi, noi perché live suoniamo già dei pezzi che sono nuovi. Sì. Ho capito. E la batteria sua è fondamentale. È fondamentale. Anzi, molti pezzi sono costruiti proprio su quello che fa lui. Capito. E questo gli dà ancora una più dinamica, più country, è veramente è ancora un passaggio ancora diverso rispetto a questo disco. Qualcuno ha parlato anche di alternative country, il vostro disco. Sì. cioè queste titoli, queste identificazioni sono valide, sì, però la vostra musica è in continuo movimento, non c'è una vera identificazione, secondo me, vera e propria. Deve essere così, crea, si sviluppa, si allarga, si prova, buona la prima, questo è importante, è un disco per quello anche significativamente importante. 15 pezzi del disco, 15 pezzi del vecchio, 15 pezzi del nuovo. Tu parli degli orrori della guerra in questo disco, in parte, sì. No? Sì, esattamente. Parlo appunto da Carlo il Temerario alla prima guerra mondiale. La Somme, il primo pezzo che abbiamo ascoltato, sì. Parlava di una battaglia, certo. Anzi, di due battaglie della prima guerra mondiale, fino ad arrivare a un pezzo sulla crisi economica che è comunque direttamente correlata a quella guerra in Iraq anche, quindi sì, si parla di guerra di battaglia. Di guerra di battaglia, esatto. A proposito di guerra di battaglia, sono le 22:40, abbiamo tanto tempo, ma abbiamo tanto tempo e tanta voglia anche di far sentire un altro pezzo del live. Cosa dite? Cosa ci fate sentire? Facciamo adesso? Train Song, direi di sì. Insomma, direi proprio di sì. Standing at the crossroad, waiting for Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Si Train Song numero 3, Number 3, bellissima, con la viola che dà un certo tocco decisamente, perché Number 1 e Number 2 c'erano nel disco precedente, sono nel disco precedente. Questa continuazione, John, voluta probabilmente, o oh, sì, voluta. No. No, cioè sì e no. Sì e no. Anche... adesso parli del sì e poi subito parli del no. Sì, perché mi piace l'idea del treno che arriva, che spezza un po' col suo rumore. È anche una figura allegorica del blues, tra l'altro, certo. Ma anche della letteratura in generale. Mi sembra, adesso non vorrei sbagliare alla grande, ma forse c'è addirittura Pirandello. Che... Sì, sì, vero. Sì, mi pare sì. Sono un mito. Sì. Pare che abbia citato il treno, ecco, qualche parte. Comunque è questo treno che è un po' risveglio. Non è ancora confermato, però. Gli beh, pare. Facciamo al 90%. Facciamo. Anche tu sì e no. Sì e no. E questo, appunto, mentre invece poi mi piace un po' il giocare sul tenere le canzoni che si portano da un album all'altro, almeno nei titoli. C'è anche Sapony Church che, sì, che riprendiamo poi da un disco all'altro. Lì però effettivamente lì è una canzone che si riallaccia a quella prima. Questa invece musicalmente anche a livello di testa è completamente separata da... Non ho dato una grande spiegazione. Sì, hai dato la spiegazione. Chiaramente si capiva. Non ci sono problemi. Poi un critico ha scritto: se solo gli Okkervil River avessero fatto un disco con queste sonorità, avete qualche parentela voi con gli Okkervil River? Ho un disco loro. Ah, è un disco. Mi piacciono, ma non impazzisco. No. Però hanno fatto delle cose molto interessanti. Sì. Senza ombra di dubbio, però non sono patito di loro. Non è il primo che. Sì, che primo, parlo del primo, Ma sì, no, dico, non è il primo che ci abbina. Gli Okkervil River. È strana un po' questa cosa. Perché, per esempio, l'ultimo disco, Gli Okkervil River, è molto diverso dai precedenti. Uh-huh. Totalmente diverso. Hanno estrapolato, hanno allargato gli orizzonti. Si sono proprio allontanati dalla musica che facevano prima. Sì, forse per il discorso dell'indie, forse per quello vi abbia paragonato a loro, perché cantate in inglese, perché ricordate, almeno nel primo disco, queste sonorità americane, anche se nel secondo, giustamente come voi avete sentenziato prima, state portando più sul folk, il folk un po' tenebroso, malinconico, ma folk non più proprio roots al 100%, quindi americano sì, però con un certo distacco dagli americani, anche se l'America è sempre la base di tutto quanto. Mm-hmm, certo. E quindi il terzo album sarà ancora più distaccato, penso, dal discorso americano, tra virgolette, oppure no? No, non si sa. Allora, se andiamo avanti, se poi registreremo quello che stiamo facendo adesso live. Perché se poi c'è sempre una fase. Sì, sì, certo. Punto di domanda. Esatto. Ci riavvicineremo molto a quel genere di sonorità. Ho capito. Anche perché forse fondamentalmente io voglio fare un giorno nella mia vita un album di vera musica country o al country alla Richmond Fontaine. Un giorno voglio farlo e ben fatto. Boris, Abraham, sono d'accordo? Per me è la prima volta che lo dici. Ecco, una cosa, assolutamente una novità. Proprio 22 in diretta. In diretta, 22:47. Esatto. Strano che non se ne siano accorti, visto che sono tre mesi che proviamo dei pezzi. Qualche cosa, diciamo, qualche adesso, sentore l'ha avuto. Sentore c'è, adesso è tanto tempo comunque che siamo dietro, relativamente tanto tempo che siamo insieme, che facciamo. Quindi, beh, comunque abbiamo abbastanza fiducia. Fino adesso le cose stanno andando bene, quindi non vedo perché non dovremmo comunque essere contro. Anzi, cioè. Ma cioè, ci sono sempre le discussioni positive quando si crea un pezzo, no? No, non ci sono. Sì, ma boh, ma poi io, cioè, nel senso, a me il genere onestamente non mi interessa. Dal momento che la cosa a me piace, io mi butto di testa. Di testa, direttamente. Onestamente, fino adesso con lui è sempre andata bene, cioè io mi fido di quello che lui se ciecamente dice, di quello che si dice. Va ciecamente no, però diciamo mi fido, so che se lui dice si fa così, facciamo questo, normalmente poi le cose vanno bene, sì, sì. Quindi per me basta che non mi dice che andiamo a fare un techno o qualcosa del genere, allora lì magari però potrebbe anche farlo, dici? No, assolutamente no. Ma non è escluso, ci sono stati un paio di session in studio dove ci siamo divertiti con la vita è piena di sorprese. Certo. però sicuramente lo si farebbe in un modo, insomma, sì, in modo alla vostro, sì, al vostro, esatto, modo, esatto. Tant'è che non si, però, cioè, diciamo che certe cose da lui non me le aspetto, quindi tutto quello che mi dice, ma certe esplosioni che nel disco ci sono, certe esplosioni in senso positivo, possono portare a delle idee più ampie, qualche esplosione, qualche corsa totale degli strumenti che ci sono, c'è nel disco, per dire. Sì, sì, sì. Beh, io trovo che ci sono dei momenti bellissimi nel disco, cioè proprio dove... Questa è la modestia. No, nel senso, bellissimi per me suonarli, eh sì, cioè, esatto, capisci? Perché sono dei momenti dove veramente, cioè, è come una palla di neve che diventa enorme. Esatto, diventa enorme. Tu. Però insomma, l'idea, diciamo, l'idea che mi dà è quella, sì, il piace, il coinvolgimento che abbiamo noi nel farle. Sì, l'idea, come avete detto all'inizio, cioè, sì, è un continuo divenire, un continuo, sì, esplorare, sì, un continuo trovare dei sistemi sempre migliori. Sì, no. Comunque, sì, no, non sei d'accordo, Abra? No, sono più o meno d'accordo, però di per sé, secondo me, è comunque di base l'attitudine che è importante. Poi la musica, lo stile, quello è il vestito. Poi dopo ci deve essere un'anima, no? Ci deve essere... secondo me, che sia alt country, che sia più indie o più folk, questo è un vestito. Sì, ma è vostra musica. Sì, sì, però chiaro, sì, però è quello che ci sta dietro a una nota, che dà il valore alla nota. E cosa ci sta dietro alla nota? Dà il valore alla nota, secondo te? Quello che la suona. Quello che la suona. Boh, comunque sì, si possono trovare parole, io di solito non le trovo mai quelle giuste. Però suoni, cioè suonando trovi le parole giuste. Oh, è un'emozione comunque, quindi... L'emozione è fondamentale, secondo me. Se non c'è emozione, non c'è anima, non c'è vita, non c'è feelings. Sì. Ci vuole emozione suonando. E dovrei avere un poeta qui da parte che sa quello che penso e troverebbe le parole, però... Con la chitarra fai il poeta lo stesso, secondo me, è sufficiente. Ok, mettiamo un altro pezzo del disco, adesso la traccia non me la ricordo, ma Michele la sceglie. Ok, la scelta Michele e poi ne parliamo. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. È la battaglia finale di Nancy 1476, la fine di Carlo il Temerario. Questa fine anche del pezzo si sentiva questo rumore della battaglia, questo rumore del sangue, della violenza, e questa viola impazzita a microfono spento. Parlavamo John Cale, le evoluzioni che faceva nei Velvet Underground. Cosa dite? Io l'ho sentita così, insomma. No, beh sì, Dio, alla fine voglio paragonarmi no, chiaramente no, però l'idea di questa tragedia, quella c'è, questa sì, sofferenza, sì. Questa battaglia, sì, quello sì. Boh, poi noi appunto abbiamo usato i nostri vostri mezzi. E, ma l'idea di questa viola è parte da te? Poi John e Abraham erano d'accordo? Sai che onestamente l'idea di base non mi ricordo, però so che a un certo punto sì, cioè bisognava metterci su qualcosa, ho suonato la viola, avevo lì un pedalino alla distorsione della chitarra e voilà. Ce lo stavamo dicendo io e lui a microfoni spenti. Dimmi questo. Ah, questa cosa. Volevamo, sicuramente si voleva fare un assolo qua, però né io né lui saremmo stati in grado di farlo. Ho capito. Quindi abbiamo affidato a lui che è decisamente più bravo. E un critico ha letto da qualche parte, questo l'ha considerato il pezzo cardine del disco, il pezzo più importante, il pezzo più significativo, sia musicalmente, dal punto di vista della complessità musicale, importante secondo uno dei critici di cui ho letto le recensioni. Può darsi che sia una cosa azzeccata? Sì, sì, perché comunque da poi il concetto anche di Carlo il Temerario a tutto il disco, già. Esatto, esatto. Poi è forse il brano più vecchio. Ah, più vecchio. Uno dei pochi che portavamo live in giro. È nato, a dire il vero, è nato come un gospel. Ah. E è diventato tutt'altro. Decisamente tutt'altro. Però lì l'origine era un gospel. Sì. È interessante questo sviluppo, questo cambiamento totale. Poi dei cambiamenti, sono 22:59. Adesso abbiamo il giochetto, il famoso giochetto dei 5 dischi sull'isola deserta, vero Michele? Michele ha detto di sì, quindi c'è il giochetto. Ve l'ho detto prima, sono stato buono. Vi ho avvertito un'ora fa, quindi all'inizio di trasmissione. Non ho avuto tempo, ho avuto quasi panico. Di solito non avverto nessuno, avverto solo in quel momento là. Io e Michele ci mettiamo d'accordo, alle 11 scatta il gioco. 5 dischi da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento, quello che volete. Da chi parte? Ma sono 5 a testa o 5? Dovrebbero essere 5 a testa, ce la allora, fai. Ok. Ma sono 15. Sono 15. E non si può copiare. No, assolutamente. Ma faccio andare prima loro. Boris, puoi scominciare. Va bene. Ti hai iscritti. Sì, beh, sì. Possono vedere i nostri ascoltatori, il foglietto, e c'è scritto tutto quanto. Beh, io prenderei sicuramente The Wall e Wish You Were Here di Pink Floyd. The Wall è doppio, quindi. Te l'avevo chiesto. Sì, esattamente. Perché The Wall, secondo te? Perché l'opera maggiore di Roger Waters? Cioè, non lo so, io quasi preferisco Wish You Were Here. Senti. Perché, ecco. Però è un gran disco, cioè, a me, io quando lo metto su, chiudo gli occhi, pelle d'oca, quindi, esatto. Insomma. Posso infilarmi nel discorso? Dai, vai. Forse l'avrei messo anch'io nei miei 5. Cioè, The Wall e anche The Final Cut. Anche The Final Cut, che è l'ultimo di Roger. Che è l'ultimo di Waters, come Pink Floyd. Io adoro lui come scrive le canzoni. E se ce n'è uno che mi ha veramente ispirato a livello di scrittura, È lui, senza ombra di dubbio. Perfetto. Quindi è stato positivo scegliere il Pink. Sì. Acquistato simpatia. Esattamente. Allora, vabbè, poi appunto Wish You Were Here, che secondo me comunque è il disco. Il disco di Pink. Poi tanti diranno che vabbè. Per me è Atomic Mother, però. A me piace questo. Vabbè, ok. Quello che è. E poi sì, mi sono messo Mike Pinson in The Gospel of Progress. Bello quello. È un disco secondo me stupendo. Bello, molto bello. Meraviglioso. Che lui probabilmente, da quello che ho sentito, l'ha fatto molto di getto. Sì, così, esattamente. Senza tante infrastrutture di norma, di assoluta. Sì, ma infatti si sentono anche i rumori, lui che si è stupendo, secondo me, cioè proprio, vabbè, quello. E poi, vabbè, i Massive Attack, Mezzanine, è un po' più. È bello quello Mezzanine. Sì, i Massive Attack. Del maggiore fulgore musicale, secondo me. Sì, poi c'è questo mix di elettronica e hip hop anche quasi dentro ogni tanto. A me piace. Quindi Quindi siamo arrivati a 4. Mi pare. L'ultimo è Frames degli Oceanside. Ah. Che vabbè, quello lì. Ti piace? Non ho parole. Sì, sì, c'è un disco che mi. Ecco, ecco sottofondo abbiamo i Massive Attack. Ah, gentile, mamma mia. Michele è bravo, bravo Michele. Gentilissimo. Ok, Abraham tocca a te o tocca a John? Sta già scrivendo. Mi è venuto il sesto. C'ho una memoria infallibile, quindi ho dovuto scrivermeli anch'io. Allora, Black Rebel Motorcycle Club, il primo disco, senz'altro, e anche Howl, che è il terzo. Sì, quindi era un po' indeciso tra i due, ma alla fine tutti e due sono delle perle. Quindi facciamo un disco unico di tutti e due. No, io direi due, così almeno. Perché i dischi ce ne sono tanti, alla fine uno non so mai decidersi. Però vabbè, questi due, senz'altro, uno e due. Perfetto. E poi Led Zeppelin, il terzo. Ah, bello, perché c'è Immigration Song o perché ci sono altre cose meravigliose? Perché, a parte Immigration Song, è comunque molto folk. È molto folk, sì. È anche molto intimo per come è stato registrato, vero, per come è stato composto. E addirittura, Stairway to Heaven, che è il pezzo... del quarto, il pezzo per eccellenza, comunque è stato l'hanno iniziato a comporre, sì, lì nel terzo, però è venuto fuori nel quarto, sì, è vero. Poi ci sono tanti discorsi legati al terzo, comunque sì, ecco, il terzo è uno di quelli che preferisco, mi piacciono tutti, ma il terzo è il tuo, devo preferito, fare una scelta. Poi Syd Barrett, Madcap Love, bello quello là, questo è sincero, non ci sono tanti dischi così, secondo me forse è l'unico disco che è così, che e poi The Patriot Gate of Town, quindi proprio Barrett dipendente in tutti i sensi, nel senso positivo, per carità, molto positivo, ma mi piace come personaggio. E poi sì, dopo Waters comunque il genio era lui. Ci sono tanti discorsi che vanno, ma all'inizio sì, era lui, il primo album era lui, poi sì, non stava più in piedi, infatti, tutto là. Infatti io preferisco, sono uno di quelli che preferisce sono uno di quelli che preferisce la parte di Pink Floyd, quella più scrancia, più, sì, più acida, per quello metto anche il primo disco dei Pink Floyd. Così ho fatto i miei 5. Perfetto, tu invece preferisci il dopo pare. Esatto, cioè nulla contro Barrett. No, per carità, no? Ci mancherebbe, però io preferisco la parte Pink Floyd. Certo, quando Waters ha preso sopravvento, sì, praticamente. Sì, decisamente. John, tocca a te adesso. Sulla parte dei Pink Floyd che preferisco. No, potremmo fare un lungo discorso fino a mezzanotte. Comune, I miei 5. I tuoi 5. Sarà difficile qua. Messi dentro 7, 8. Vabbè, allora, facciamo una cosa così. Neil Young Harvest. Ah, proprio quello, proprio folk. Folk? Sì. Bello, bello. Quello secondo me. Lo sai il nuovo disco di Neil Young? Da chi è prodotto, no? No, Daniel Lanois. Ah, sì, non lo conosci, Daniel Lanois? Sì, ha prodotto tanti dischi importanti di Dylan, Mercy per esempio. Oh. E ha dato una svolta, almeno chi l'ha sentito, Stefano l'ha sentito, ha dato una svolta epocale a Neil Young. Un disco incredibile, incredibilmente diverso di Neil Young. Esce fra qualche settimana, fra qualche mese, fra qualche settimana. Sarà una sorpresa per tutti. Quindi, Neil Young, Harvest. No, Harvest Moon, Harvest. Non confondiamo con Harvest Moon, Harvest, che è un altro disco di Neil Young. Sì. Non era proprio Harvest, però. Eccoli qua. Richmond Fontaine, Winnemucca. Bello quello là. Stupendo. Molto bello, sì. Musicista non conosciutissimo, ma molto bravo. Sì, bravissimo. Poi anche un bravo scrittore, tra certo. Poi penso Built to Spill, Perfect for Now. Ah, però interessante che è quello. Sono a 3. Sì, sei a 3. Ne hai ancora 2. Ne hai ancora 2. Allora, un disco a caso di Godspeed You Black Emperor. Forse Yankee Hux. Sì, potrebbe andare. Poi qua devo scegliere tra due geni. Cosa scegli? Potrei mettere un bel Bob Dylan Freewheeling, però non proprio vorrei. All'inizio di carriera. Esatto, però non vorrei. Allora, visto allora che sei, io metterei anche I See Darkness di Bonnie Prince Bill. Ecco, esatto, che non è un musicista fu conosciutissimo in Italia, anche se abbastanza ha un suo pubblico. Però è interessante anche quello. Ok, questi sono i 5 vostri, 15 dischi vostri. E adesso cosa facciamo? Suoniamo un altro pezzo, chiaramente. Cosa volete suonare? Facciamo l'intro di Tom, Dad & Mom. Perfetto, facciamo l'intro di quello. Tutto in diretta, 22:23:06. Thank you. not if it'll be there on your side, protecting and trying to save me from my past and dreams. Grandissime atmosfere. Mi ricordava un gruppo, la musica non cantato, perché Hope Sandoval è una ragazza, quindi non c'entra assolutamente. I Mezzi Star. In qualche momento si aveva quel pezzo decadente. I Mezzi Star. Ah, beh, sì. Ecco, vedi, John li conosce. Chiaramente non è il cantato, Hope Sandoval è un'altra cosa. Sì. Precisamente. Però era anche più bella di me. Meno pelosa, sì. Però nella musica la decadenza, in qualche momento sì, mi ricordavo allora, soprattutto in questo pezzo che è decisamente folk, ma un folk decadente. Posso dire decadente? Sei d'accordo, Alberto? Sì, sì. Ecco, anche Alberto è d'accordo. Non so cosa dite, mi ricordavo questo. Ah, c'è un pezzo che ho fatto che è veramente uguale a Into the Dust, loro, che poi non abbiamo pubblicato proprio perché è uguale proprio. Quindi c'è qualcosa, sì. C'è un'attinenza in magistrato. Sì, sì, mi piacciono molto. Sono... Tu, Boris, cosa dici? Io purtroppo non li conosci. Non conosco, quindi... Idem, anch'io. Un gruppo di ignoranti. No, per carità, assolutamente no. È un gruppo indie tra virgolette, tra molte virgolette, cioè, ma è interessante. Quindi ricordava questo. Quindi un allargamento al folk, una folk in tante dimensioni, John, decisamente. Questo disco accentua, cioè rafforza questo concetto. Sì, sì. Non del tutto. No, lo dicevamo prima, ci abbiamo messo veramente tanto a registrarlo, quindi ci è passato dentro di tutto. Tante facce allora. Sì, dalla psichedelia anche al blues. Io ho ascoltato per tanto tempo il blues. Blues, sì, esatto. Hai ascoltato, sì, chiaro, se senti che hai sentito tanto blues, ma un blues che l'hai molto sofferente in alcuni momenti. Sì, mi piace molto il country blues, quello vecchio, la Blind Lemon Jefferson o la Robert Johnson. Secondo me è straordinario pensare che questo negli anni 40 o 50 o prima ancora, no? Sì, prima ancora si registravano su acetato, sì, tenendo il tempo con la suola delle scarpe. È vero, non c'erano gli strumenti elettronici all'epoca. E anche quel blues è addirittura molto ipnotico e molto psichedelico. È vero. Nel suo nella sua semplicità è molto psichedelico. Eh sì, la psichedelia entra dappertutto in questo disco, questo vostro disco, però è una cosa positiva. Io citavo prima i Grateful Dead, che di psichedelia sono gli artefici massimi, come facciamo 7 ore di concerto, e la Dark Star che durava 7, 8, 10 minuti, 12 minuti. Era una esplosione psichedelica, assolutamente. Anche lo stesso David Crosby, Difficult to Remember My Name. C'è qualcosa. Sì, l'America arriva, ma arriva, ripeto, in questo disco un po' diversa, un po' filtrata, e poi scomparirà, forse, non si sa, se ne andrà da qualche parte. Può darsi. Un altro pezzo dal disco, cosa dite? Sono le 23:13. Non so che cosa ci sia adesso. Michele. Traccia di 10. Ok? La sentiamo? Perfetto. Ascoltiamo. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Questa era la traccia numero 10, adesso la spieghi, di questa traccia, questo titolo praticamente, in italiano 1929-2009. Sì, ma anche noi la chiamiamo. Anche, perfetto, okay. In italiano, ok. Parla, senza voler entrare troppo in politica. No, parla, senza entrare in politica. Parla, c'è un abbinamento tra la crisi del 29 e la crisi del 2009. E parla un attimino anche di certi modelli che ci sono stati venduti dagli anni 80 al 2009, in cui sembrava che bisognava spingere assolutamente sul liberalismo, poi dopo effettivamente ci si è accorti che, non so, io ho lavorato in banca per quasi 10 anni, sono svizzero, questo è uno stereotipo. Dopo, io lavoro da 35 anni in banca. Davvero? Esatto. Non sono svizzero, però è la stessa. E comunque, sì, grazie, Michele ha detto una frase che sintetizza tutto. Dimmi. E mi sono perso. No, hai detto, no, che hai lavorato 10 anni in banca. Ho sentito, non mi ricordo chi l'ha detto, ieri sera in televisione, una frase molto bella di un consigliere federale, no, era un politico svizzero, che diceva che nel 2005 è andato a una conferenza di bancari, e questi banchieri gli stavano spiegando come avrebbero dovuto gestire la Svizzera secondo i loro modelli economici, che comunque la Svizzera spendeva troppo qua, là, e loro invece erano la perfezione. E poi dopo nel 2009 si è dovuti andare a foraggiarli, a salvarli dal fallimento, ed è dovuto essere lo Stato, ecco. Questo è un po' un pezzo su queste cose. Ho capito, chiarissimo. Tutto si parla, però fin fine le cose poi bisogna provare sul campo, e chiaramente sì, i paroloni non servono poi. Ok, quindi un pezzo molto bello, musicalmente un pezzo particolare. Io ho letto sulle critiche, non praticamente da questo disco, ma nell'insieme delle cose, qualcuno citava Ennio Morricone da parte vostra. Siete d'accordo su Ennio Morricone? Su questo, non Ennio Morricone, un qualche momento di Morricone, soprattutto qualche spezzino di western, se qualche, o non soltanto di western, qualche film particolare, qualche colonna sonora particolare, Mission, per dire una. Sì. Questa pomposità nel senso positivo del termine, questa religiosità musicale, possiamo dire questo. Cioè, è un genio. Morricone è un genio, sono d'accordo con te. Anche lui è stranissimo che dall'Italia sia riuscito a fare una colonna sonora straordinaria come Il buono, il brutto e il cattivo. Cioè, esattamente, successo mondiale praticamente, è andato al di là dei confini. Dopo magari non c'è un legame diretto con lui, ma sicuramente c'è un legame diretto con musicisti che hanno lui come punto di riferimento. Come punto di riferimento. E qualcuno ha citato gli Hills. Sì. Ecco, gli Hills, sì, io li vedo come un vostro punto di riferimento, come un vostro collegamento, sia pure a 360 gradi. Perché Hill è il musicista, il leader della band, fantomatica band, un po' particolare, gestisce le cose, amplia, costruisce, rallenta. È strano musicalmente parlando, ed è bello per quello, perché è imprevedibile. John è imprevedibile musicalmente parlando, come avete detto voi, sì. E quello è importante, secondo me, cioè scrivere un pezzo sì, ma poi sviluppare un discorso anche diverso, totalmente opposto, e poi ritornare sul tema, e l'imprevedibilità è anche questa. E questo probabilmente, questo disco qua, che ripetiamo, è diverso dal precedente, è più ancorato al folk, però può essere imprevedibile anche questo in alcuni momenti, grazie alla batteria di, come si chiama, il Duke ha fatto un lavoro interessante. Sì. Determinati pezzi si sente anche su questo, anche se sembra nascosto, ma non è vero. Lo diciamo, però che qua la batteria suona io. Ha le sonorità, mi sono sbagliato, però ho fatto talmente una talmente nascosto che uno ha fatto una gara. Però ha un'importanza Duke, sicuramente. No, è importantissimo e diventerà sempre più importante. E no, perché non avevo i libretto. Non l'avevo neanche messo. Non c'era scritto. No, che poi tra l'altro questo è stato il primo pezzo che abbiamo registrato del disco. Il novembre. E infatti per quello che, cioè, per me ha un po' un significato. Sì. Perché credo di avere convinto John a registrare da me. Crede il disco, l'hai convinto. E quindi sì, mi sono trovato con lui a registrare questo pezzo, ed è per quello che ci suona anche lui la batteria, perché eravamo lì io e lui, Però una cosa che hai detto giustamente, il registrare da te non ci sono state pressioni, c'è avuto il tempo di portare avanti un discorso vostro, cioè in sala, come avevamo detto all'inizio, in sala di registrazione ci sono determinati tempi anche economici, quindi bisogna far presto. Beh, soprattutto per l'economia, no? Per l'economia, come dice, spendo tot al giorno, quindi dobbiamo spiegarci, dobbiamo far presto. Difatti penso che, come dicevo anche l'altro giorno a Abram, probabilmente la cosa più bella che io ho potuto offrire al gruppo quando sono entrato è questo, cioè il poter essere in uno studio come in una sala prove, no? Cioè, gestirlo senza fretta, senza tra di noi, senza estranei, niente. Dopo chiaramente quando si ha il tempo, non si ha questa pressione, non è che poi ci si impiega per forza 3 mesi per un pezzo. No, non è quello il discorso, no. Però si ha semplicemente tempo meno pressione, si ha una cosa meno da pensare, più... quindi si fa un focus maggiore sul resto. Per quello John allora si è allontanato dal gruppo, che non lo lascia, che fa sempre dei tempi molto stretti, c'erano sempre le prime donne, forse anche per quello, per trovare un momento di calma, di rilassatezza, di pensare le cose, di svilupparle senza pressioni, insomma. Sì. E poi in quel progetto non c'era forse fiducia anche, ecco, vero, nei miei confronti, non si fidavano di te, di quello che volevi fare, che avevi intenzione di fare. C'era soltanto da parte di Duke, e non a caso Duke è con me, ed è con me fin dall'inizio, perché Boris e Abram purtroppo non hanno suonato nel primo disco, Duke c'era già. Quindi cardine del progetto, te e Duke, e poi sono arrivati loro praticamente. Sì. E ripeto, Duke purtroppo oggi non è qua, però ci sente via internet, ci sente via, ha detto che è a casa, ci ascolta, tra l'altro si sposa. Bene, auguri. Non oggi. Si sposerà. Non puoi dire oggi perché si sposa e ci sta seguendo in diretta. No. Si sposerà quando sarà la data giusta. E quindi diventerà sempre più importante. Chiaramente sì. Mentre che diventa sempre importante sentire suonare praticamente. Cosa suoniamo adesso? Che pezzo? Facciamo Sonoma County. Ok, benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Del 2008 una rivista importante italiana, si chiama Mucchio Selvaggio, scriveva a proposito del primo vostro disco una cosa, Alessandro Averame. La band appartiene alla categoria di quei dischi, questo il primo album, che colpiscono ingenuo, forte, fedele ed immaginario. Certo non avrebbe bisogno di ulteriori seguaci, eppure dotato di una freschezza e di una schiettezza che non perde tempo a rimirarsi e a cincischiare. È ancora valido ancora adesso questo giudizio, secondo me. 2008, primo disco, ma perché no? Può farlo anche nel 2010. Non cincischiate voi, andate, non perdete tempo a cincischiare. È così? No. Vogliamo essere più semplici. Ecco, sì. E anche la durata dei pezzi, che spesso è corta, magari dura un minuto e trenta. Essenziale. È essenziale. Sì, tante volte magari prolungarsi troppo sarebbe stato inutile. Ho sentito dei feedback che hanno preso questo fatto dei pezzi corti come un difetto dell'album. Io sinceramente lo trovo più un pregio. Però comunque, ecco, riguardo al Mucchio, è stato un onore per me vedere nel 2008 che hanno due volte addirittura, sì, due volte, sì, esattamente, vedere, non so, Pescatore o Selva, sì. Mira che gli consideravo veramente dei guru della musica, fare la recensione del mio disco e farla positivamente è stato bellissimo. Sono corso, da noi è difficilissimo trovare un Mucchio in Italia, è difficile, bisogna comandarlo, poi costa un casino. Sono veramente corso la frontiera, ho preso su 3 o 4 copie del Mucchio, è stato molto bello. Ma che riviste musicali ci sono in Svizzera, escluso il Mucchio Selvaggio? Si legge Rolling Stones, americano probabilmente. Arriva poco, arrivano riviste inglesi come Uncut, arriva Rolling Stones, sì, c'è anche quella in italiano. Sì. Dipende un po' dall'edicola. Però è veramente molto difficile, siamo un po' tagliati fuori dal mondo delle riviste. Ho capito. In generale. E a proposito di concerti, citiamo il vostro sito, chi volesse indagare. E vedere. Noi utilizziamo MySpace, non abbiamo un sito vero proprio internet. Quindi il sito è myspace.com LansonSouth. Lì si trova un po' tutto. Ci sono le date, i concerti, le spiegazioni, ci sono le recensioni, eccetera. E, quindi è un messaggio importante, uno strumento importante per poter sentire la vostra musica, per andare dentro, sì, praticamente. Cioè, cosa dici, Boris? No. Sì, io non sono un grande utilizzatore di MySpace, di internet, cioè nel senso faccio fatica anche a leggere le mail e loro lo sanno, cioè, io leggo tipo 10 mail alla volta, poi... Mi sono detto che non hai parlato con te, Alberto ha parlato con Joe e Abraham. Sì, sì, sicuramente. Quindi vabbè, sì, no, è chiaro che MySpace è sicuramente utilissimo, internet in generale, cioè anche altre cose per mandare, non so, per i concerti, però io non riesco a occuparmi di queste cose, cioè non ho la testa, non riesco a star lì, a avere la pazienza a cercarle. Comunque internet per la musica indipendente ha avuto un ruolo fondamentale, cioè comunque è una rivoluzione nel bene e nel male, perché per certe cose scaricare, quindi se vuoi il lato negativo, però comunque permette a ogni singolo di far accedere comunque alla propria musica, no? Quindi se non una volta è molto più difficile, impossibile, sì, infatti via lettera sempre mai, non arrivava mai, quindi eccetera. E poi anche per la propaganda, se vuoi, a livello di concerti, poi sì, no, ma infatti secondo me, cioè, è uno strumento eccezionale, per carità, che ha i suoi pregi, i suoi difetti, però... vedi. A proposito di strumento, abbiamo detto che il disco è stato autoprodotto da voi, però c'è l'etichetta che vi ha supportato. Sì, supportato dal punto di vista della pubblicità, vi ha supportato come praticamente? Ci ha aiutato anzitutto a stampare il disco, che era un problema anche. Mica poco, Ci sta aiutando a promuoverlo in Italia, in Germania, in Francia. Ed è un test, vediamo come va. Va bene, come va. Beh, qua dalle critiche sono state tutte molto positive, quindi speriamo che sia anche un buon segno. Però tornando su internet, secondo me internet è lo strumento per promuovere la musica, e il download può essere un problema magari per un musicista affermato. Io sono comunque contentissimo quando la gente decide di scaricare gratuitamente un mio pezzo. Su Bandcamp si può scaricare, possono scaricare 2-4 pezzi nostri gratuitamente. Io quando vedo che la statistica sale dei download che fanno, io sono fiero di questa cosa, sinceramente. A un certo punto lo regalerei a tutti questo album. Perfetto. Ok, non so, sai in scaletta cosa c'è, Michele? Un altro pezzo, Michele? Sì, c'è un altro pezzo, adesso mette su Michele e poi ne parliamo, ok? Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Volevo chiedervi è questa: dal punto di vista temporale, 15 pezzi sono stati scritti, qualcuno tutti insieme, qualcuno prima, qualcuno dopo, tu hai già, ne avete già discusso, ne abbiamo già parlato, però in generale tutti 15 pezzi sono stati, non so, 7-8 in un momento solo, poi gli altri prima, gli altri dopo, c'è stato un collegamento oppure no su questa cosa del tempo, voglio dire, se ti ricordi, che sempre se vi ricordate. No, non vi ricordate. Non mi ricordo. No, era una cosa molto molto strana e anche abbastanza impellente, no? Io veramente chiamavo Boris al telefono e dicevo: andiamo a registrare questo pezzo. Poi sinceramente se ne abbiamo registrati di fila o... Sì, alcuni. Sì, sicuramente. Diversi. Cioè, certi sono nati proprio lì. Sì, immediatamente. Lui vi chiamava al telefono, un pezzo subito. Sì, pronto. Però chiamava per registrare un pezzo, poi alla fine sono fuori due o tre. Sì, perché poi appunto andavo via un attimo, tornavo e lo vedevo suonare. Diceva sì, sto registrando. E la funzione di Duke là com'era? La funzione di Duke? Visto che adesso non ce ne parliamo di lui. Che funzione aveva in quel momento Duke? Duke ci ha dato il... ha messo il suo soprattutto nelle parti più forti di batterie. Lui è un po' l'anima più rockettara, più rock, più punk del gruppo. Del gruppo. E per fortuna c'è, perché e poi il suo è stato forse anche il lavoro più curato a livello di arrangiamenti. Lui si è veramente messo dietro a impegnarsi a tirare fuori un ritmo di batteria che non fosse banale, che non fosse la solito ritmo rock, ma che ci stesse bene. E gli siamo grati. Assolutamente. quindi l'impero di determinati pezzi un po' scossi, un po' mossi, più che altro, più che scossi, mossi, era lui, è stato lui. L'idea, però, l'idea parte sempre da te nel canovaccio. Sì, però anche lì, a un certo punto, io ho un po' soggezione di lui, no? Ah, come mai? Perché è alto e è piazzato. Ah, fa paura. Fa paura. No, e comunque anche per lui mi piacerebbe fare un disco in cui è fiero di suonare, no? E quindi anche fare dei pezzi che so che piacciono a lui. Quindi determinati pezzi sono dedicati a lui, è scritti in quel modo per, anche dopo, per farli live, fare in modo che lui si diverta e non sia semplicemente lì a fare due colpi. Quindi c'è l'improvvisazione in certi live, c'è la possibilità di dare a Duke il tempo di sviluppare determinate cose, poi ritornare sempre sulla base del pezzo. Quello voglio dire. Sì. Stessa roba per Abraham e Boris, oppure no? Sono un po' più minuti. Ah, sono più minuti. Quindi ho meno paura di loro. Quindi non gli concedi di allargare, non so. Cioè, Boris fa un pezzo di viola, lo amplifica, Abraham un pezzo di chitarra lo amplifica. No, non può. Sì, poi soprattutto nel live. Nel live, ci parlo del live. Loro, sì. Loro hanno. Soprattutto Abra, ha molto più spazio poi nel live. Un pezzo di chiusura il nostro è un blues abbastanza dove fa tutto lui, cioè, capito? Con l'intensità posso variare, ecco. Esattamente, quindi fate anche delle cover. È meglio per me che lo faccio nel modo giusto, questo è chiaro. Ah, però. È meglio per te, perché dopo la fine del concerto ci sono le basi, ci sono le risultanze. Esatto. C'è una pagella, penso che ci sia una pagella. No, ma sono so accettare ogni critica, quindi non. Stiamo scherzando, magari non subito. Stiamo sempre scherzando, i nostri ascoltatori devono sapere che stiamo scherzando. Magari non subito, però alla fine. Cioè mi interessava sapere questo, tutto questo discorso. Sì, non siamo castrati musicalmente. Ho capito. Cioè, volevo arrivare. C'è una specie di jam session in qualche momento dentro il pezzo del live? Questo voglio sapere. Quello sì, secondo me sempre. Cioè, nel senso, chiaro che le basi, i pezzi ormai sono quelli, perché poi c'è il disco. Nel senso. Però io ho sempre sentito questa necessità. No, quando noi suoniamo c'è un po' questo caso che ci guida un po'. Poi come viene. Chiaro, le basi sono quelle. Sono le cose che ci escono meglio. Eh? Sono quelle cose che ci escono sì, meglio. Sì, sì, esatto. Anche perché comunque c'è dipendenza di dove si suona e dell'atmosfera che si crea, poi si va avanti da lì. Cioè dell'umore suo, anche mio, di Abraham. Cioè, è un po' molto casuale il concerto. Ogni volta cambia. Però la voglia di allargare forse c'è, rimane. Sì, leggermente. Sì, sì, sì. Diciamo che non sfocia tutto in un virtuosismo per forza. Certo, certo, capito. Però una variazione di intensità, certo, cioè, comunque dalla gente e dalla situazione la cosa viene influenzata, quindi in un qualche modo. Ma questo in ogni caso, qualsiasi gruppo sia, qualsiasi stile sia, tutto influenza in quel momento, è quella la musica, però penso per tutti. Sì, perché qua ci sono molte influenze, cioè ci sono tante facce della stessa medaglia, si parla dell'alternativa country, al blues, al rock, alla psichedelia, ritorno al blues, cioè il blues però secondo me è la base comune di tutto qua dentro. Il folk sì, però il folk il blues sì. Criptata però c'è. Esattamente, c'è sempre il blues che bene o male si ramifica. Nonostante tutto, sì, nonostante il blues è la base di anche del rock, anche del rock, cose, nel senso. È quindi fondamentale. C'è questo fantasma che sta lì. Sì, un bel fantasma, sì. Come diceva prima John, fantasma degli anni 20, esatto. Esattamente. Sono 23:43 quasi. Adesso non so, Michele, abbiamo un altro pezzo in scaletta. Facciamo un altro pezzo in scaletta, sì. E poi cominciamo a suonare fino alla fine alle 24. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. I'm not cut out for this, and I'm not really sure. Waiting for the wind to come. There's no time left, no chances to live, no sense to decline. Eccoci qua. Allora, parliamo della genesi di questo pezzo. Mentre i due ragazzi prendevano un po' di aria fuori, Boris mi parlava della genesi, della difficoltà di fare questo pezzo, di metterlo in determinata maniera, vero Boris? Sì, è stato, penso, il più travagliato. Pezzi, sì, perché tante sonorità, tanti incastri. Ci sono tante cose dentro e è stato molto difficile mettere assieme tutto, soprattutto per il fatto che è stato registrato un po' in momenti diversi, a pezzi. E quindi poi metterli assieme, farli amalgamarli, farli suonare, no? Perfetto. Farli suonare come un pezzo solo è stato abbastanza, diciamo, difficile, cioè, non difficile, però insomma impegnativo. E questo retaggio velvettiano bellissimo che c'era, che parlavamo io e te mentre il pezzo andava, mentre loro non erano presenti, questo velvet, perché non c'è niente, mica niente di male citare il velvet underground? No, assolutamente. È un nome che ha fatto la storia della musica in tutti i sensi. Assolutamente. E questa viola, la viola, John Cale è un violinista pazzo del Galles, un gallese però. Che violinista, ragazzi. Però usava la viola come uno strumento, cioè all'epoca non era semplice, era difficile trovare nel 67 uno che suonava la viola in un gruppo rock. Sì, è stato uno dei primi, forse dell'unico conosciuto. Sì, conosciuto di quello bello. Ma rimasto solo lui praticamente. Interessante. Quindi un pezzo molto difficile, complesso, complicato, però è uscito bene nonostante tutto. Sì, sì, no, beh, ma io come ti dicevo, cioè, è, nonostante tutto, è il mio preferito del disco, cioè quello a cui probabilmente tengo di più, a parte il primo, che vabbè, è un altro significato. Sì, però è stata abbastanza duretta. Sì, è stata dura. Sì. Ok, 23:50. Facciamo un primo pezzo e dopo concluderemo col finale. Sempre un pezzo. Questo pezzo come si intitola? Cos'è Horrible Town? Perfetto. L'armonica, usi anche l'armonica? No. Più tardi, l'armonica avrà usata. Preparata. Abbiamo preparato. Diretta a rockway.altervista.org, chiaramente 23:50. radio. Le tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, ci siamo. La musica era country, country, ma la tua voce è una voce con blues malato, qualcosa di blues, non so. Mi è sembrato questo, non so se sei d'accordo. C'aveva questa sofferenza, questo pathos, questa voglia, questo non dico urlo, però questa voce pesante nel senso positivo del termine, questo mandolino che dà la sensazione del country, però era un country alternative country, proprio alternative country in questo momento. Quindi il tupelo qualcosa mi ricordava quel gruppo là, ma sono tutti ricordi, tutti fattori che si sviluppano nella mia mente e poi chiaramente hai citato un gruppo che ami, quel gruppo loro sono volte dopo sono volte eccetera, quindi quella frangia sì. quel collegamento continuo e Wilco, anche potremmo citare anche Wilco, gruppo straordinario, pezzi musicisti straordinari. Bella, è stata una bella cosa. 23:55, abbiamo quasi finito questa bella cavalcata. Ripetiamo allora il titolo dell'album: Just the Bomb. Dove si può trovare su internet, chiaramente. Sì. Potete ordinare su internet. Si trova su Amazon. Su Bandcamp. Si trova. Ai concerti, fra qualche giorno. Ai concerti, esatto. Alla Mela di Newton sabato. Esatto. Alle 21 mi pare. Sì. Sì. 21 Mela di Newton, qui Padova, qui vicino alla radio praticamente. Possiamo assistere al concerto vostro. Cosa farete in quel concerto? Presenteremo il disco in acustico, un po' come abbiamo fatto qua stasera. E poi qualcosa del primo album. Poi qualcosa del primo album, sicuramente. Benissimo. Poi comunque nel Veneto torneremo ancora a dicembre. Bene, dove? Ti ricordi? A Vicenza. A Julian. Durante il Wake Me Up Festival. Ho capito, benissimo. Organizzato da Occasional Disaster Booking. Ha detto qualche altro, oltre a quello della Mela di Newton sabato, ha detto qualche altro concerto che internet si può anche dire, chiaramente da prossima settimana oppure no? O in Svizzera o in Italia? Domani siete in Svizzera? Domani siamo in Svizzera. Poi mi sembra venerdì a Milano, Arcore. Perfetto. E poi sabato. E poi sabato a Padova, chiaramente. Quindi qua, tornate stasera. Poi, domani mattina sì. Tornate in Svizzera. Sì, sì. Perfetto. Sì, quindi, sì. Però, insomma, la musica va al di là delle distanze, no? Sì, possiamo sì. dire questo. Grazie. The Lonesome Summer Comfort Company, John, Abraham e Boris, grazie, siamo stati felicissimi di averti ospitato, è stato piacevolissimo. Adesso concludiamo con un altro pezzo e salutiamo i nostri ascoltatori con quel pezzo. Questo è un pezzo che non abbiamo mai registrato. Benissimo. E che forse non registreremo mai. Si chiama Jesus. Grazie a Michele Tosoni in regia. La prossima settimana avremo i Piccola Bottega Balters, mercoledì prossimo, per un live acustico. Buonanotte a tutti. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock.